senta, dottore, ma se la stanchezza pesa anche un po' invece sull'umore? Il dottor Confalonieri in apertura ha detto uno dei segnali classici della stanchezza è quando siamo particolarmente irritabili e quindi insomma l'umore diventa un po' ballerino. Abbiamo un rimedio? In questo caso c'è un rimedio ancora più indicato tra i tonici adattogeni, è la rhodiola. Rhodiola? Rhodiola, altra erba orientale, arriva dalla Russia e dall'Asia. Moltissimi studi scientifici hanno sancito l'attività adattogena della radice di rhodiola, anche qui utile per contro la stanchezza, le performance, migliora le performance mentali, ma anche nell'ansia, appunto per ricollegarci a quello che dicevate, e nei disturbi dell'umore, perché è un'azione anche serotoninergica. Quindi ecco, quindi andate di rhodiola, come si dice. Limiti, controindicazioni? Praticamente nessuna, e questo è utile anche nello sport, e farà sicuramente piacere agli ascoltatori sapere che per il meccanismo serotoninergico migliora questo ormone del buon umore, è utile persino anche per calmare la fame nervosa. Quindi... Ma invece, per favorire il sonno, la natura ci aiuta o no? Assolutamente sì, a parte con alcune piante di carattere sedativo anche molto note come la valeriana, la passiflora, ma c'è un'altra erba adattogena anch'essa, forse la mia preferita, arriva in questo caso dall'Ayurveda, quindi dalla medicina tradizionale millenaria indiana, che è l'ashwagandha o ginseng indiano, anche se non è un ginseng nemmeno lui. Questo il nome scientifico, la dice lunga e non lascia spazio all'immaginazione, si chiama Witania somnifera, non è un vero sonnifero ma è un regolarizzatore proprio del ritmo sonno-veglia, si prende alla mattina, anche questo magari due capsule insieme, oltre ad essere un tonico generale del sistema nervoso, un antistress naturale, regolarizza il sonno e non ha quegli effetti tonici, per esempio del ginseng, che possono appunto disturbare il sonno, riposo. Ma anzi, lo regolarizzano.